Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Tra poche ore il Trieste-Roma viaggerà anche ufficialmente dall'Italia all'Italia. Stamane ne è sceso il prosindaco di Trieste, Visentin, coi delegati del comune e della giunta provinciale. Sotto il saluto, un fraterno batticuore. Sono le ore 12 quando i triestini giungono al Quirinale. Anche il gonfalone di Trieste è presente. Il Presidente della Repubblica dice: il governo mi ha testé annunziato che in questo momento il nostro ambasciatore a Londra appone la sua firma all'accordo grazie al quale Trieste ritorna all'Italia e l'Italia a Trieste. Questa è una storia che finisce il 5 ottobre 1954, quando Trieste torna a far parte del territorio italiano. Gli alleati, dopo quasi 10 anni, lasciano la città e si dirigono verso le loro patrie. Il presidente della Repubblica, Luigi Einaudi, commosso, tiene il suo discorso al Quirinale, circondato dalle istituzioni triestine giunte a Roma per l'occasione. La giovane Repubblica Democratica Italiana ha ottenuto quello che la beffarda storia gli aveva dato e poi tolto. Quando Trieste viene liberata dai partigiani sloveni e di quando viene persa, sempre dai partigiani sloveni, e consegnata agli alleati in soli 40 giorni. È una storia di confini, di linee tracciate sulle mappe, di spostamenti di soldati e di persone. I protagonisti sono gli americani, i triestini, gli jugoslavi, Tito e De Gasperi, e personaggi meno noti al grande pubblico, ma che le fonti attestano essere abili manovratori della diplomazia. In questa mezz'ora, o poco meno, che passerete insieme a Walloon, il programma di storia di e con Radio Città Fujiko, scritto e pensato da Frey, Alessia, Debs, Lara, Jacopo e Olga, che vi accompagna ai microfoni questa domenica, vi trasportiamo nell'Alto Adriatico, nel territorio libero di Trieste e in Istria, dove Est e Ovest si incontrano e si scontrano, dove il riposizionamento dei confini dopo la Seconda Guerra Mondiale gioca un ruolo chiave nella Guerra Fredda appena cominciata. Dio del ciel, se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove il mio amor, che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò, dille che non sarà più sola. Nel 1952, nella seconda edizione del Festival di Sanremo, trasmesso dal casinò della città omonima, in diretta nel secondo canale radio, trionfa la voce cristallina di Nilla Pizzi con la sua hit Vola Colomba. L'immacolato uccello di cui canta Nilla Pizzi non è altro che Trieste, che tutti sperano possa tornare tra le braccia della madrepatria italiana. La cantante preconizza così ciò che davvero avverrà solo 2 anni dopo, con il cosiddetto Memorandum di Londra. Per dipanare le tappe con cui si è arrivati al famoso memorandum, abbiamo chiesto aiuto allo storico Federico Tenca Montini, che ha dato alle stampe nel 2022 per Il Mulino la Jugoslavia e la questione di Trieste, 1945-1954. Il volume è frutto di approfondite ricerche nei principali archivi dell'ex Jugoslavia e ne ricostruisce il ruolo all'interno delle trattative per il ridimensionamento dei confini tra il paese del maresciallo Tito e l'Italia. Abbiamo con noi Federico Tenca Montini, ricercatore del Centro Ricerche Scientifiche di Capodistria. Ciao Federico, grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Senti, all'interno del tuo libro, che ripetiamo si chiama La Jugoslavia e la questione di Trieste 1945-1954, edito dal Mulino nel 2022, ci racconti appunto qual è la questione triestina dal punto di vista però jugoslavo. Ma partiamo da una data direi tanto reale quanto simbolica, e cioè il 1° maggio 1945 Trieste viene liberata dai partigiani. Cosa succede in quei giorni in cui Trieste poi è di fatto jugoslava? In quei giorni, quindi correttamente, a partire dal 1° maggio 1945, non solo a Trieste, ma anche in altri territori, a Gorizia, a Monfalcone, a Tarvisio, a Cividale, diciamo lungo tutta la fascia confinaria, arrivano i partigiani jugoslavi, l'esercito, l'armata di liberazione popolare jugoslava, e instaura un regime di occupazione, come facevano anche gli angloamericani nei territori da loro liberati. Nei giorni successivi si assiste ad un intenso lavorio politico per l'impostazione della politica del futuro. Sono elementi abbastanza trascurati, addirittura a livello storiografico, figuriamoci a livello di rappresentazione pubblica, perché si preferiscono poi gli aspetti più traumatici, ma ad esempio già il 2 o il 3 maggio c'è un'assemblea di insegnanti perché si tratteggia la politica scolastica. Il progetto era quello di creare un sistema scolastico bilingue, con la necessità per gli studenti italiani di imparare lo sloveno e il croato, e quelli, per quelli sloveni soprattutto e croati, di imparare l'italiano. Si tratta peraltro della stessa politica che rimane in vigore nella zona che rimane dopo il giugno 45 nella giurisdizione jugoslava, la zona B del territorio libero di Trieste, ma questo ci porterebbe lontano. Però sta di fatto che poi in una quarantina di giorni gli jugoslavi perdono Trieste. Come avviene questo passaggio di consegne, se è così? Sostanzialmente è un passaggio di consegne. Succede questo: il 1 maggio arrivano gli jugoslavi, il 2 maggio arrivano gli angloamericani, tecnicamente gli inglesi, ma la situazione non rimane fotografata così sul terreno, perché continuano ad affluire truppe e soprattutto aumenta la presenza angloamericana. All'inizio gli angloamericani rimangono quindi in questo territorio, ed è una situazione abbastanza rara, amministrato di fatto dagli jugoslavi, e si accontentano di gestire l'accesso a certe infrastrutture, il porto, la ferrovia, per continuare le operazioni militari in Austria. Presto però, ed è una situazione che conosce uno sviluppo drammatico durante i giorni, o meglio con lo scorrere dei giorni di maggio, gli apparati, quindi pensiamo ai comandi, ai capi, sia militari che delle diplomazie occidentali, decidono che questo sconfinamento di Tito, la cui presenza al di fuori dei territori jugoslavi d'anteguerra non era stata pattuita, costituisce un precedente pericoloso, e si esercita tutta una serie di pressioni che si avvicinano abbastanza all'inizio di giugno ad una situazione di guerra, perché le truppe angloamericane continuano a espandersi nel territorio occupato dagli jugoslavi verso est, quindi c'è un perfetto overlapping, per così dire. Alla fine Tito cede e si arriva agli accordi di Belgrado. Siamo il 9 giugno del 45, in pochi giorni le truppe jugoslave ricevono l'ordine di ritirarsi oltre la linea Morgan, letteralmente la linea che il generale Morgan aveva tracciato su una mappa a Belgrado mentre si incontrava con i generali jugoslavi. Ecco, abbiamo cominciato a tracciare già quello che succederà nel decennio, perché tu nel libro hai un arco temporale molto preciso, 1945-1954. Ecco, se dovessi tracciare gli avvenimenti più importanti che hanno caratterizzato questo lunghissimo decennio e che poi hanno portato al riposizionamento dei confini, quali di questi sceglieresti per... Ora ti chiedo una sintesi che so che non è possibile, ma per i nostri ascoltatori e ascoltatrici proviamo a fare questo. Non c'è nessun problema. Naturalmente ricalco la struttura che ho dato al libro perché penso che sia la più efficace. Senza andare troppo nel dettaglio, abbiamo detto il 1 maggio del 45, il 12 giugno del 45 quando le truppe jugoslave lasciano Trieste, poi nel 1947 il 10 febbraio, proprio la data scelta poi per il giorno del ricordo. Sostanzialmente è la data della firma del trattato di pace con l'Italia sconfitta nella seconda guerra mondiale e questo trattato, limitatamente a Trieste, sancisce la creazione del territorio libero di Trieste, quindi un territorio più ampio che comprendeva Gorizia, Monfalcone e le altre cittadine citate prima, si riduce e rimane a includere Trieste e il circondario e poi un settore di attuale Slovenia, Capodistria, Pirano e un pezzetto di Croazia, Umago, Buje. L'altro evento molto importante nell'estate del 1948 è l'espulsione della Jugoslavia dal Cominform, cioè dai club dei partiti comunisti riconosciuti tali dall'Unione Sovietica. Questo è un evento che non discende direttamente dalla questione di Trieste, anche se in qualche modo anche l'atteggiamento jugoslavo attorno a Trieste rientra tra le cause, ma è l'evento che porta la Jugoslavia a cambiare schieramento e a diventare un paese comunista ma filo occidentale. Questo determina le scadenze successive. Per un po' di tempo non succede granché, finché la Jugoslavia e l'Italia sono chiamate a collaborare nella progettazione difensiva occidentale nell'ipotesi di un attacco sovietico. Questo fa sì che non possa esserci un giro diplomatico tra i due paesi attorno soprattutto alla questione irrisolta del territorio libero di Trieste, che rimane sulla carta perché non entra mai in vigore, non diventa uno Stato indipendente come inizialmente prospettato a Parigi, e negli anni successivi si fanno delle trattative che non portano a granché, finché nel 1953 De Gasperi, diciamo, non perde proprio le elezioni, ma non è in grado di fare un governo monocolore DC perché la legge truffa non scatta. Si forma un governo più spostato a destra, questo drammatizza lo scontro con gli jugoslavi, si arriva nell'estate-autunno del 1953 ad una concentrazione di truppe sui due lati del confine e poi nei mesi successivi si arriva a trattative condotte in due turni a Londra che portano alla conclusione dell'avvertenza territoriale attraverso la divisione del TLT, che era composto da due zone, la zona A occupata dagli anglo-americani e la zona B occupata dagli jugoslavi. Beh, si dividono le due zone così come erano, fondamentalmente con piccoli aggiustamenti per la Jugoslavia. Trieste va all'Italia e la Jugoslavia rimane invece a Capodistria, a Pirano, a Buje e a Umago. Diciamo che sostanzialmente, per capirci, nel 54 i confini sono come noi li vediamo adesso? Sostanzialmente sì, non è però così a livello legislativo, perché ciò che viene sancito nel memorandum di Londra del 1954 è un disinteressamento, disinteressarsi degli anglo-americani alla questione di Trieste dopo il ritiro dalla zona A. Quindi gli anglo-americani se ne vanno solo dalla zona A, subentra l'amministrazione italiana e la situazione va avanti de facto. Per una soluzione de jure, bisogna aspettare gli accordi di Osimo del 1975. È una questione abbastanza spinosa, anche se in fin dei conti priva di risvolti fattuali, perché a Trieste c'è ancora un filone di pensiero che nega legittimità a queste scelte. È anche il motivo per cui si è dovuto aspettare il 1975 per sancire de jure il confine, perché c'era sempre la tendenza ad aspettare che magari succedesse qualcosa di catastrofico in Jugoslavia per mettere in discussione anche l'assegnazione territoriale della zona B. Invece con Osimo ciò viene risolto. Con la dissoluzione della Jugoslavia le repubbliche di Slovenia e di Croazia ereditano gli accordi territoriali con l'Italia e quindi questi territori vengono incamerati legalmente e in maniera riconosciuta nelle repubbliche di Slovenia e di Croazia. Quando l'MSI durante le guerre jugoslave cerca di sollevare la questione di una revisione territoriale, l'appello cade nel vuoto e non se ne fa nulla, salvo, anche se forse in maniera un po' pigra da un certo punto di vista, ma ci sono dei colleghi che la pensano diversamente, ripalesarsi una decina d'anni fa quando c'è stato un movimento TLT a Trieste, ma forse la vera questione in quel caso era reclamare forme di autonomia locale che rivitalizzassero l'economia cittadina. E a proposito in parte di questo, viriamo un attimo il discorso, ma neanche tanto, perché tu qualche anno fa, nel 2014, ti sei occupato anche di foibe con il libro che abbiamo trattato anche noi di Vallun, abbiamo letto qualche anno fa, che si chiama Fenomenologia di un martirologio mediatico, le foibe nella rappresentazione pubblica dagli anni 90 a oggi, quando oggi era il 2014. Io ti chiedo, in questi quasi 10 anni che sono passati, com'è la situazione della memoria delle foibe? Com'è ricordata, non ricordata? Chi sono gli attori principali? No, grazie per questa domanda. Sfrutto anche un po' per fare il punto, perché non dico carriera perché è una parola grossa, ma nel proseguo della ricerca, perché ho avuto la fortuna di continuare ad occuparmi professionalmente di ricerca storica, è da molto tempo che io stesso non penso a questa questione, a questa mia prima pubblicazione, che è stata letteralmente la mia tesi di laurea, pubblicata con poche modifiche. E all'epoca si trattava di un lavoro tipico per un laureando in sociologia che però sceglie di fare la tesi di argomento storico. E così ho fatto, perché io ero alla bicocca a sociologia, ma avevo un forte interesse per la storia e ho scelto una cattedra di storia contemporanea per sviluppare la tesi. E effettivamente c'è questa questione, non da poco, che nel titolo si menziona l'oggi, ma ormai è una pubblicazione ferma dal 2014, se non che l'editore continua a venduchiarlo e... Ecco, questo spiega perché si trova ancora da qualche parte. Che cosa è successo da quell'oggi del 2014, più concretamente 2011, quando ho discusso la tesi, ma poi il testo è stato aggiornato, all'oggi 2023, il 9 febbraio, che è il giorno in cui stiamo parlando? Sicuramente... questa narrazione, che all'epoca era abbastanza fresca nella urgenza della commemorazione annuale, si è fissata attorno a certi elementi. Alcuni dei protagonisti della popolarità della questione delle foibe dell'epoca, alcuni testimoni sono venuti a mancare. Un aspetto molto evidente degli ultimi anni, e potrei dire degli ultimi 4-5 anni, è la grande importanza attribuita alla figura di Norma Cossetto, che è sempre stata una delle figure simbolo della vicenda delle foibe. Per precisione, precisiamo, le foibe istriane del 1943 e non le foibe giuliane del 1945, ma prima conviveva in un sottobosco di storie personali, adesso invece è una delle questioni di punta nella narrazione della violenza delle foibe, al punto che è una delle poche personalità a meritare dei riferimenti toponomastici che le vengono concessi in abbondanza, con il suo nome, al di là delle intitolazioni più generali ai martiri delle foibe, alle vittime delle foibe o ai nomi di luogo. In tutti i miei pensieri, di sempre una di ieri insiste. Uno che ha voglia di cantare come un valzer che ti fa girare la testa. Come una musica ostinata, sentita e mai scordata, Trieste. Un vento all'improvviso che ti bacia forte in viso, Trieste. Mare, cielo senza fondo, ombelico del mio mondo, Trieste. Una nave impavesata di bianco, blu e celeste, Trieste. Una rosa in un bicchiere, due gerani al davanzale, Trieste floreale. Canzoni antiche, l'osteria, divino donne, nostalgia, Trieste mia. Foto di gruppo a Miramare, in divisa di marina, Trieste in cartolina. E i tuoi vecchi riva al mare, una sirena per sognare, Trieste. Trieste valzerina, allegre boreale, Trieste imperiale. Favorita del sultano e dell'imperatore, Trieste, l'amore. Come una donna tanto amata, perduta e poi cercata, Trieste ritrovata. Tricolore a primavera, bandiera di frontiera, Trieste bersagliera. Speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita. Romana repubblicana, vendicare la sottana, se devi essere italiana. Favorito del sultano e dell'imperatore, Trieste l'amore. Speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita. Grazie ancora al nostro ospite Federico Tencamontini. Vallun per il giorno del ricordo si è sempre occupata della questione delle foibe e dintorni. Abbiamo parlato del confine orientale l'anno scorso con Mila Orlic e Francesca Rolandi. Abbiamo intervistato Eric Gobetti sulla memoria pubblica delle foibe. Abbiamo incontrato storici e storiche che ci hanno aiutato a dipanare e chiarire le vicende del confine orientale, nella convinzione che non si debba mai prestare il fianco a ricostruzioni storiografiche fantasiose, specialmente adesso che le persone che hanno voluto fortemente la legge che istituisce il giorno del ricordo dal 2004 sono al potere. Potete riascoltare tutte le puntate su www.radiovallun.info e buona domenica da Olga e da Vallun. Ciao!